credo che in questa situazione si sia verificato il classico evento di discontinuità quando cambia un capo azienda. Dopo 9 anni in cui alla guida c'era l'imperatore Guarguaglini, perché è stato l'imperatore della Finmeccanica, è arrivato Orsi, ci ha messo qualche mese a guardare i conti e ha deciso di fare, si potrebbe dire, un'operazione di pulizia, ma questa in realtà c'è stata una svalutazione di oltre 700 milioni di euro solo nell'aeronautica e riguarda proprio il programma più avveniristico, la partecipazione al Boeing 787, l'aereo detto di plastica, il Dreamliner, esatto. Quindi questo cosa vuol dire? Che certamente il cambio di vertice induce chi arriva a guardare con maggior prudenza una situazione, però questa operazione intanto non esaurisce l'accantonamento di fondi a oneri di ristrutturazione che ci saranno nei mesi successivi, quindi saranno caricati penso nel bilancio di quest'anno e forse un po' l'anno prossimo, anche nell'area dell'elettronica, della difesa, la Selex, quindi dai radar all'avionica, che è molto importante. Certamente anche il quadro esterno, contrazione delle spese pubbliche per gli acquisti di armamenti nella difesa, deterioramento del mercato complessivo finanziario, hanno indotto il vertice a una maggior prudenza.